Merhaba, 95.0 Açık Radyo'dasınız. Itabella'dasınız. Itabella, İtalyanca her nevi tınıyla karşılaşacağınız yeni bir program. Çizmeden gelen bu parçaları dinlerken müzisyenleriyle, dönemiyle ve parçanın sözleriyle ilgili bazı tüyoları da sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Bugünkü programda İtalyan coverlarına yer vermek istedim. İlk parçamız Tricarico'dan geliyor. Asıl adı Francesco Maria Tricarico olan sanatçı 49 yaşında bir Milanolu. En çok 2000 yılı çıkışlı albümü Io Sono Francesco ile tanınıyor. Birden fazla kez San Roma'ya katılmış. Bu şarkısı aslında bir Toto Cutugno parçası. Ya da herkesin en bildiği ismiyle, haliyle Lasciatemi Cantare. Ama parçanın asıl adı L'Italiano, İtalyan. Lasciatemi cantare con la chitarra in mano, lasciatemi cantare, sono un italiano. Buongiorno Italia, gli spaghetti al dente, e un partigiano come presidente. Con l'autoradio sempre nella mano destra, un canarino sopra la finestra. Buongiorno Italia con i tuoi artisti, con troppa America sui manifesti, con le canzoni, con amore, con il cuore, con più donne sempre meno suore. Buongiorno Italia, buongiorno Maria, con gli occhi pieni di malinconia, buongiorno Dio, ma sai che ci sono anch'io. Lasciatemi cantare con la chitarra in mano, lasciatemi cantare una canzone piano piano, lasciatemi cantare. Perché ne sono fiero, sono un italiano vero. Buongiorno Italia che non si spaventa, e con la crema da barba alla mente, con un vestito gessato sul blu e la moviola la domenica in TV. Buongiorno Italia col caffè ristretto, le calze nuove nel primo cassetto, con la bandiera in tintoria, una 600 giù di carrozzeria. Buongiorno Italia, buongiorno Maria, con gli occhi pieni di malinconia, buongiorno Dio, lo sai che ci sono anch'io. Lasciatemi cantare con la chitarra in mano, lasciatemi cantare una canzone piano piano, lasciatemi cantare perché ne sono fiero, io sono un italiano vero. Lasciatemi cantare, perché ne sono fiero, sono un italiano vero. Tricarico'dan dinledik L'Italiano. Şimdi Alessio Lega sizlerle. Alessio Lega aslında çocuk müzikleriyle ün salmış güneyli bir Lecceli müzisyen. Aslında kendi çalar söyler tabiri caizse. Ama bu parçası dinlediğinizde hemen fark edeceğiniz üzere tipik bir Georges Brassens parçası olan Con le con son brave şarkısının İtalyancası. Alessio Lega'dan dinliyoruz. I bravi coglioni. Senza esser definibile un perfetto idiota, non sono uno scienziato, un genio, una cometa, ma son di buon carattere, di compagnia, e ciò compensa tuttavia. I bravi coglioni, come me, come te, come noi, come voi, se non stanno buoni, s'arrabattono, sbattono, fanno casini, non è poi grave, fra pagliuzza e trave. Ma statisticamente, i tre quarti dei matti son capi di stato malati di mente. Hanno zelo, denari, mostrini alla maria, per questo fanno il massimo danno. Se il signor Tizio fosse solo un ragioniere, ragionerebbe in ogni caso col sedere. Ma è quadro di partito e capo gabinetto, fa una cazzata e salta tutto. I bravi coglioni, come me, come te, come noi, come voi, se non stanno buoni, s'arrabattono, sbattono, fanno casini, non è poi grave, fra pagliuzza e trave. Ma statisticamente, i tre quarti dei matti son capi di stato malati di mente. Hanno zelo, denari, mostrine alla maria, per questo fanno il massimo danno. Se il generale Caio non avesse i gradi, un paio di stronzate avrebbero rimedi. Ma il capo divisione gioca con le bombe, lui sbaglia e cade l'ecatombe. I bravi coglioni, come me, come te, come noi, come voi, se non stanno buoni, s'arrabattono, sbattono, fanno casini, non è poi grave, fra pagliuzza e trave. Ma statisticamente, i tre quarti dei matti son capi di stato malati di mente. Hanno zelo, denari, mostrini alla maria, per questo fanno il massimo danno. O Dio del cielo, hai fatto proprio un bel casino, hai messo i ciechi alla guida del destino. Se non ci fossi stato, o fossi un po' più sveglio, non ti incazzare, ma era meglio. I bravi coglioni, come me, come te, come noi, come voi, se non stanno buoni, s'arrabattono, sbattono, fanno casini, non è poi grave, fra pagliuzza e trave. Ma statisticamente, i tre quarti dei matti son capi di stato malati di mente. Hanno zelo, denari, mostrini alla maria, per questo fanno il massimo danno. I bravi coglioni aslında bir George Brassens parçasıydı. Alia Sölega'dan dinledik. Şimdi sırada gerçek adı Maria Chiara Fraschetta olan Nina Zilli'den dinleyeceğimiz bir parça var. Nina Zilli'yi Özpetek filmi Minervaganti'den hatırlıyor olabilirsiniz. Serseri Mayınlar'daki Cinquanta Mille Lacrime şarkısıyla tanıyor genelde insanlar. Nina Zilli Orta İtalya'dan diyelim. Piacenzalı bir sanatçı. Şimdi dinleyeceğimiz parça Francesco Guccini'ye omaggio, yani saygı için yapılmış Note di Viaggio albümünden gelecek. Tango per due. Silenziosa, un po' rigida in posa, ballare una sera. La vita è solo una cosa rimasta indietro, non c'è più ma c'era. Composta e indomenicata, eleganza sfocata, raggiunta a fatica. L'oggi ha cambiato facciata, ma di quel ieri passato io so che tante ne potreste raccontare. Il ricordo stempera e non guasta, quante cose facce da narrare, che come si dice un romanzo non basta. Nate con un rapido a domani, continuate in giorni di sì e no, lampi sotto cieli suburbani e raffica al tango che vi presentò. Lui biella sta tuffo, leva muscoli, grinta, officina, e solo lei, lei quiete, chitarra vela, segreti, donna, calore, viola. Lui nicotina, capelli indietro, cravatta, bici lei, lei Ryan, lei signorina, la permanente coi ricci. Coppia di fronte a un bianchino, anonimo vino, frizzante anidride, la vita che buffa a casa, ma se lo dici nessuno ride. Coppia legata dai giorni, partenze e ritorni, fortezza e catena, datemi i vostri ricordi, ditemi che ne valeva la pena. Ora le luci sono spente, sta uscendo la gente, saluti e rumori. Ditemi che avete in mente, come una volta, di fare l'amore. Quello che è stato un segreto, di un prato, di un greto, del buio, di un viale. Quel gioco ardente e discreto, da allora sempre è diverso ed uguale. Chi lo sa se ciò che è da cercare, ciò che non sai mai se vuoi o non vuoi, sia così banale da trovare, sia lungo ogni strada, sia a fianco di noi. Perso in tante scatole di odori, angoli e tendine che non so, impronte di paesaggi e di colori, manciata di un tango che vi accompagnò. Lui biella, stantuffo, leva, muscoli, grinta, officina, sole lei. Lei quiete, chitarra, vela, segreti, donna, calore, viole. Lui bar, alcol, nicotina, cappelli indietro, cravatta, bici lei. Lei Ryan, lei signorina. Nina Zilli'den dinledik Tango per Due. Şimdi Fred Buscaglione'nin 1959 yılında hayatını kaybetmeden bir yıl önce listelere giren parçası Guarda che Luna, Ay'a Bakı, Petra Magoni'den dinliyoruz. 1972 Pisa doğumlu Magoni, Ferruccio Spinetti ile birlikte hayata geçirdikleri harika coverları var. Şimdi bunlardan birini dinliyoruz. Guarda che Luna. Questa notte senza te dovrò restare folle d'amore, vorrei morire mentre la luna lì lassù mi sta a guardare. Resta soltanto tutto il rimpianto perché ho peccato. Che luna, guarda che mare. Lassù mi sta a guardare. son solo a ricordare e vorrei poterti dire: guarda che luna, guarda che mare, guarda che luna. Petra Magani'den dinledik Guarda che Luna. Şimdi aslında bir Pierre Champi parçası olan Il Vino'yu dinleyeceğiz. Bu parça 2010 yılında Pierre Champi'ye ithaf edilen Omaggio albümünde La Cruz tarafından icra ediliyor. Mauro Ermanno Giovanardi, Alex Cremonosi ve Cesare Malfatti'nin 1994 yılında kurduğu grup 2004 yılında birlikteliğine ara verdi. Ama bu albüm gibi bazı konserler için yeniden bir araya geliyorlar. La Cruz yorumuyla dinliyoruz. Il vino. Come bello il vino, rosso, rosso, rosso. Come bello il vino, è rosso, rosso, è bianco al mattino, sono dentro un fosso, e in mezzo all'acqua sporca. Queste stelle, questa vita è corta, è scritto sulla pelle. Come bello il vino, bianco, bianco, bianco, è rosso è il mattino, lo sento male a un fianco, è vita, vita, vita. Sera dopo sera, e sfuggi tra le dita, e spera, mira. Oh,

lasci volare, se così si può dire, questioni di cuore. E tu ancora e noi, ancora e lei, un'altra volta fra noi. Le mani questa volta sei tu. Meglio non dire. Pensiero stupendo'yu Roberta Carrese'den dinledik. Şimdi bir The Turtles cover ile karşınızdayız efendim. 1968 Eylül çıkışlı Eleanor'u 1968 Aralık'ta İtalyanlaştıran Gianni Morani'den dinleyeceğiz. Gianni Morani 1944 doğumlu Emilia Romanyalı bir sanatçıdır. 1970'te ülkesini Eurovision'da Occhi di Ragazza ile temsil eden Morani, 1987'de de Sanremo'yu Si può dare di più ile kazanmıştır. Bu sene 70.'si düzenlenen Sanremo Müzik Festivali birazcık İtalya'nın Eurovision bize iyi gelmiyor düşüncesiyle başlayan ve yıllar içinde pek çok ünlü popstarın tanınmasına vesile olan bir İtalyan geleneğidir desek yeridir. Şimdi Gianni Morani'den Scende la Pioggia radyonuzda. Caldo, io per la strada al freddo, ma non è questo che mi fa triste. Qui fuori dai tuoi sogni, l'amore sta morendo, ognuno pensa solo a se stesso. Basta con i sogni, ora sei tu che dormi, ora il dolore io lo conosco. Quello che mi dispiace è quel che imparo adesso, ognuno pensa solo a se stesso. Scende la pioggia, ma che fa? Colla il mondo addosso a me. Per bir Turtles cover'ı olan Shandala Pioggia'yı Gianni Morani'den dinledik. Tabiri caizse oldukça ters köşe bir cover dinleyeceğiz şu an. Gianna Nannini'nin Amandotisini Cicipi Fedeli alla Linea'dan dinliyoruz. Cicipi 1982 yılında Giovanni Ferrati ve Massimo Zamboni tarafından kurulmuştur. İyi bir İtalyan punk grubudur aslında. Ama şimdi Gianna Nannini'nin Seni Sevmek Beni Tüketiyor, İçimi Uyuyor diye Cicipi versiyonunu dinliyoruz. Amandoti. Amarti ma fatica mi svuota dentro qualcosa che assomiglia a ridere nel pianto. Amarti ma fatica mi dà malinconia. Che vuoi farci della vita? È la vita la mia. Amami ancora, fallo dolcemente. Un anno, un mese, un'ora perdutamente. Amarti mi consola le notti bianche, qualcosa che riempie vecchie storie fumanti. Amarti mi consola, mi dà allegria. Che vuoi farci è la vita, è la vita la mia. Amami ancora, fallo dolce. Amandotti'yi Cicipi yorumuyla dinledik. Şimdi de Sergio Endrigo'nun Lontane dagli Occhi, Gözlerden Uzakta isimli 1969 tarihli parçasının Gianna Nannini yorumunu dinliyoruz. Bence Gianna Nannini İtalyan rock'ının kraliçesi. Yani en azından benim için. Babası Siena'nın, Toskana Siena'nın en ünlü pastanelerinden birine sahip olan Nannini, 1986 yılında yayımladığı Bello e Impossibile ile ününü İtalya dışına taşıdı. God is a Woman tişörtüyle hamleyken Vanity Fair kapağına çıkan Nannini, partneriyle birlikte artık İngiltere'de yaşıyor. Lontane dagli Occhi radyonuzda. C'è nell'aria qualcosa di freddo che inverno non è. Che cos'è? Questa sera i bambini per strada non giocano più. Non so perché l'allegria degli amici di sempre non mi diverte più. Mi ha detto che questo amaro sapore che resta di te quando tu sei lontano e non so dove sei, cosa fai, dove vai. E so perché non so più immaginare il sorriso che c'è negli occhi tuoi quando non sei con me. Lontano dagli occhi, lontano dal cuore, e tu sei lontano, lontano da me. Per uno che torna e ti porta una rosa, mille si sono dagli occhi, Nannini'den dinledik. Şimdi dinleyeceğimiz parça ilk olarak 1950'de tenor Tito Skipa tarafından yorumlandı. Parçanın bestecisi Salve Despósito'ydu ve sözleri Tito Manlio'ya aitti. Bu şarkı İngilizce olarak 1952'de Dinah Shore tarafından üne kavuştu diyebiliriz. Şimdi Montefiore Cocktail'den dinliyoruz. Klavyede Francesco ve saksafonda Germano Montefiore'den meydana gelen Montefiore Cocktail'den Anima e Core. Fermiamo già così, Anima Core. Ce la sanno più, manco ben ora. Sto desiderio e te mi fa paura. Campa con te, solo con te, per non ci mappa parole amare. Sì, io bene vuoi campare con un respiro. Si smanie vorredo per chi sta amore. Tenimo già così, anima e core. Noi che perdimmo a bacio suono, non ci dicimmo mai perché. Voce cavasse non ne vuole, non so sti vocoine. Ora se chiama non risponde, per far dispietà a me. I wonder for to know, you really love me. I wonder for to know, you really share. Desideriete me fa paura.